la trasmissione dal PC. Ci ho messo un commutatore che può andare su tutte le radio, ce ne avanza senza niente praticamente, è un, come si può dire, proprio una cosa basilare, elementare, che comunque con tutte le radio è sempre andato bene, mai problemi, mai nulla. Quindi Robè, tu devi fare prima cosa accendere il computer, seconda cosa collegarti a internet, terza cosa scaricare i programmi che ci interessano e quarta fare questo benedetto cavetto con i famigerati quattro fili, uno te lo lasci pure in riserva, e poi iniziare a giocare. Sì, anche se devo aggiungere una cosa, stavo parlando di un'altra cosa, questo che stavo dicendo tu è il discorso che abbiamo aperto l'altro giorno, ci avremmo accennato a preparare, no, io mi riferivo alle cosiddette chiavette, quelle USB che ti ricevi i segnali con diversi tipi di cose, di modulazioni eccetera, ma sto parlando di ricevere quello che stai dicendo tu, quello lì era riferito che io ho questa scatolettina di un piccolo ricevitore che al posto della chiavetta deve attaccare al computer, e questo non c'ha bisogno di attaccare al computer, c'è un display piccolino dove ti appare un piccolo monitor, dai, dove c'è la frequenza, la cascata dell'emissione, l'esatto degli spettro e l'SMeter che ti dà anche l'intensità di segnale. Sto dicendo di un'altra cosa, l'unico problema è che siccome è troppo piccolino, è una cosa minuscola, è bruttissimo da utilizzare. Infatti sono andato da Claudio che gli ho detto prova un po' tu, gli ho detto sì ci sono dei programmi, però c'è il programma per ampliare il display e mettertelo su un monitor di computer che non riusciva a leggerlo l'SDR sacro. Infatti ho pensato se cioè, magari c'erano altri sistemi oppure ti devi rinunciare. Guarda, allora io ho roba di 4, 5, forse anche 6 chiavette e sono tutte buttate da una parte, ce ne sono buone, meno buone, diverse chiavette USB. Io ti posso assicurare che anche con basse potenze, tipo adesso che sto trasmettendo qua, se ci fosse la chiavetta sarebbe già imballata, a prescindere dalla frequenza in cui è, perché possono andare bene per fare ascolto, se sono buone chiaramente, su satellite che sono frequenze molto distanti da quelle che utilizziamo noi, ma poi in HF non valgono niente, in HF ci vuole selettività, soprattutto su segnali digitali, sono attaccati all'altro i segnali, basta vedere cosa c'è con questo impiastro di sistema FT8, che è una cosa micidiale, c'è dappertutto, rompe pure le scatole, e quindi usare la chiavetta per HF significa già iniziare a essere in condizioni di svantaggio. Io ho anche oltre SDR Sharp anche altri programmi, però siamo sempre a livelli piccoli, ecco, per chi si accontenta, però da poco. Mentre uno che c'è un apparato che è anche costruito per fare quelle cose, è tutto un altro pianeta, siamo due mondi diversi proprio. Sì, assolutamente d'accordo, infatti le HF sono assolutamente disturbate, non c'è problema. Ok, vai di nuovo Claudio, a te il mic. Thank you. io ti dico di lasciar perdere qualunque spesa relativa a chiavette, anche se costano 10 euro, perché non ne vale la pena, solo per configurarle, per farle andare d'accordo, perché poi ci sono alcune variazioni sul chip interno. Guarda, è un bagno di sangue, poi devi scaricarti anche il programmino per fargliela vedere. Adesso non mi ricordo, drive, che è capace che quando lo lanci ti cancella magari i drive che ti interessano oppure. Quindi è la capisci, guarda, un consiglio amico, io le ho tutte fatte queste cose, però o si mette roba seria o se no si rischia proprio di cadere, tenendo presente che quello che vuoi fare è già il 50-60% dell'attività radio, nel senso che oramai utilizzano moltissimi CV, utilizzano moltissimo il TSK e i vari sistemi. La voce insomma c'è, però se fai un paragone, di là ce ne sono 5 che parlano, dall'altra parte ce ne sono 20, quindi è meglio sempre avere una cosa che sia decente. Aspetta, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo. Avanti, se no riprendi tu Claudio. Vai Claudio. Non vuoi utilizzare quello grande perché c'è l'impressione che questa cosa sia una cosa in più. Non è una cosa in più, è una cosa che implementa la radio semplicemente. A posto che il suo lavoro, ho capito, soprattutto attaccato a quello grande. Tanto le prese, se nel caso ipotetico ti diano fastidio, ma non dovrebbero dare fastidio, si possono attaccare uno spinotto, lo stacchi, boh, e poi lo riattacchi. Tutto lì. No, aspetta un attimino, questo che mi stai dicendo tu è già matematico, è come che sia già fatto, assolutamente mi interessa. Io vorrei fare una cosa, utilizzare il computer come ricevitore, nel senso ricevitore come quelli di nuova generazione, come il Perseus parliamo, che ci abbia una buona ricezione, non dico eccellente a livello del Perseus, mi faccia vedere in grande la frequenza, il segnale, la cascata della larghezza di banda, eccetera eccetera. Con quel discorso che mi stai dicendo tu, queste cose non le posso fare, posso soltanto leggere e vedere quello che mi stanno dicendo o viceversa mandare anche io delle informazioni digitali, però a me mi piace vedere un monitor aperto dove leggo, vedo la frequenza in grande, lo strumento, l'SMeter in grande e con tutte le forme dell'analizzatore di spettro. E quella è un'altra cosa, perché praticamente li devi spendere, guarda, io ce l'ho qua davanti, te l'ho detto, è l'Excalibur della WinRadio. Metti quello, cioè da 0 a 52 MHz. Se poi lo vuoi implementare, c'è un affare che costa un pacco di soldi, lo metti dietro, non sarebbe altro che un transverter, e se ne va fino a 3000. Ricevitore non buono, eccellente, ed è tutto SDR. Quindi sensibilissimo, vedi tutto, c'ha tutti i modi già in fase di implementazione. c'è le cose che paghi tutte a parte, ma parecchio, e quindi va a finire che ti stai comprando un altro apparato HF. Tu dì il discorso, se tu vuoi fare questa operazione io ti consiglio o WinRadio o il Perseus, che c'ha molte applicazioni connesse anche per decifrare direttamente i vari sistemi, tutto lì. No, infatti è quello, per iniziare, siccome il mio sogno sarebbe il Perseus, questo che mi stai dicendo tu, Excalibur non lo conosco, non posso dire niente, il Perseus l'ho visto ed è eccezionale anche come uso, eccetera eccetera, però costa ancora tanto, ma che non ti trovi qualcuno che lo vuole svendere, a quel punto si può pensare di comprarlo. Ma con questo apparecchietto che mi ha fatto vedere lui, che ho visto anche le prove su internet eccetera eccetera, per iniziare ti permette nel piccolo di fare qualcosa. Sì, scusa Claudio, c'è l'ELAT, ce ne sono altre marche eccetera, più o meno, diciamo, certo raggiungere i livelli del Perseus o delle Excalibur che sono proprio dedicati, fatti da ditte assolutamente che fanno solo quello e basta, è un po' in salita. Dopo sono accodati tantissimi perché hanno visto l'affare, però se uno vuole la cosa seria, veramente SDR nativo con DRM nativo, allora è tutto un altro discorso, ecco. Servono quelli lì. Sì, sì, vabbè, ma quello è come quando fa il salto dal baracchino all'HF. Facciamo il passo piano piano, uno per dire si può appassionare, poi piano piano decidi e compro quello che stai dicendo tu. Però per iniziare, questa scatolettina che io l'ho vista, adesso mi ricordo che tipo che c'ha due ingressi di antenne ed è già qualcosa di positivo, uno per le HF e l'altro per le U, arriva mi sembra a 2000 mega, cioè 2 giga mi sembra che arriva, fa da 1,5 a 2000, adesso non mi ricordo. Comunque per iniziare, dico, non dico definitivo perché tutte le cose si fanno con i passi piano piano, costa poco una di quelle scatolettine cinesi. Ho visto delle prove di su internet, tu mi dirai non è manco le scarpe vecchie di un Perseus, perché il Perseus magari ti ascolti il segnalino, che quello neanche lo riesce a sentirlo, quello invece ascolta bene. Però per iniziare volevo provare un pochettino. Riprendi Claudio. C'è questo Excalibur, mi ha detto Gianfranco, è un prodotto di che nazionalità, italiano o che può? No, è una casa australiana, la WinRadio. Adesso non so quanto venga perché io ce l'ho da tanti anni, è stato più volte implementato, ma i costi sono talmente elevati per essere un semplice ricevitore che insomma. Infatti io lo tengo sempre da parte perché sono molto molto molto sensibili e anche molto, questo è un po' robusto, però ho paura sempre di qualche scarica che se parte praticamente chiuso, perché è roba che non si ripara, capito? Talmente piccola, talmente miniaturizzata, che ci mette mano, nel caso della WinRadio, solo la casa australiana, non mi posso permettere, diciamo, di fare un pacco e mandarlo in Australia, più le spese magari di riparazione. Insomma, hai capito che sarebbe un bagno in sangue, che converrebbe dedicare l'altro, è per quello che ho programmato la stazione proprio in termini di apparati direttamente, anche se sono già SDR di per sé stesso, quindi di evitare cose che al dunque non si possono riparare, tutto lì. Sì, sì, ma che Perseus, li ho visti i prezzi, ma non so quanto possa costare il tuo, ma Perseus supera i 1000 euro, lo paghi, cioè a livello di pagato un ricevitore di un apparato, non un ricevitore, di un apparato ricevitore discreto, con 1000 euro riesci a trovare qualcosa. Beh, ma i prezzi quelli sono, capito, non c'è poco da scappare. Aspetta, c'era qualcuno che ha sentito, avanti che vuole entrare, vai di nuovo qua. Sì, qua c'è il ragazzo, purtroppo non ho seguito la pulsata, perché noi segnali arrivano molto bassi di quelli che sono bullati in età attuale, cioè, capito, sì, quello, come si chiama, perché quello costa una parte di soldi, però per iniziare, qua quello che ti ho consigliato io va più per bene, così vuoi investire cifre enormi e male per sperimentare, io ti consiglio di iniziare con quello che ti ho detto e poi vedrai tu, capito, perché comunque che c'ha una buona accessibilità, una buona ricezione, non è che ha la stessa qualità di quello che mi costa una parte di soldi, ma va più per bene, va più per bene perché è meglio di quello che mille SDR, come la chiudo io, capito, perché io mi ho preso, la uso più che altro, quella per sentire le scalerate del cuore, si chiama quelle cose in effetto, capito, perché non la uso molto più di tanto, mi piace molto mi ascolto gli aerei e quelle cose che mi va. Proprio una HF sopra, l'ho provato anche ne avevo un'altra a farle in amplifica e l'ho provato a fargliela seguendo come è stato prima su internet, però invece di farla a microsaldatore ho sbagliato il dato il saldatore normale, dove ho cominciato la portagna mi ha rovinato il circuito, infatti quando la collego al computer è sorda, quell'altra e me ne sono dovuto prendere un'altra, capito, perché si spostano un po', e capito, e mi sono comprato il modello quello con la sinistra. Dico che non vanno bene, mi preoccupo che le faccio io, però quell'altra cosa che ti ho consigliato è superiore di questa qua, questa là, mi prendi il mio franco. Sì, sì, infatti, io stavo cercando il prezzo, neanche quando ti danno questi che già chissà quanto costa, tra l'altro una cosa che in Italia mi sa che neanche vendono più, bisogna sempre, ecco, mi sa che c'è scritto pro, 1149 euro, ecco, questo mi dice così, Siamo a livello di Perseus, non so al mercato dell'usato quanto si possa comprare il Perseus, però se intorno ai 1200-1200 avevo visto io il Perseus tempo fa, non so poi se i prezzi sono diminuiti, diciamo di lì è tutto lo studio, l'ingegnerizzazione, perché il valore non ce n'è, non c'ha niente, una scatoletta, fa tutto un processore e buh. Infatti non paghi tanto quello che c'è dentro quanto quello che c'è dal punto di vista dal software, capito? Che gestisce tutto e fa tante cose, questo c'ha quello che vuoi tu proprio, c'ha la frequenza, c'ha lo strumento fino all'Hertz, c'ha l'affare di lì a lancetta oppure come ti pare, c'ha uno, due, tre schermi di analisi, quello da 0 a 30 o da 0 a 50, almeno da 0 a 50, lo puoi anche programmare, c'ha i filtri, c'ha la registrazione, insomma, te l'ho detto, era usato in certe ambasciate per tenere d'occhio alcune frequenze, ne avevamo 30, 40, messi tutti lì in batteria e poi vedevano quello che succedeva, ecco. No, no, vabbè, stai già parlando di qualcosa, c'è anche l'RDS per dire? L'RDS non te lo so dire perché non mi sono mai interessato, perché è una cosa, diciamo, giocattolo per la radio, no? Questo c'ha il DMR nativo, cioè praticamente le radio digitali in HF, ed è uno spettacolo, credo che vada anche in stereo addirittura. Poi niente, è una cosa, insomma, un ricevitore a cui puoi abbinare anche un trasmettitore, ecco, con le opportune precauzioni. Molti infatti hanno il Perseus per ricevere, poi ci mettono un trasmettitore, qualche apparato per la trasmissione, sganciando sempre ovviamente il ricevitore, se no lo imballi di brutto. Tutto lì. niente Robert, queste sono le cose, non so se ai tempi d'oggi con 1000, abbiamo detto 1400 euro ti esce un altro apparato tranquillamente nuovo, nuovo e seriale tra l'altro, è trasmittente. Sì, ma quello che voglio dire, per avere le sensibilità di quel tipo di ricevitore devi spendere migliaia e migliaia di euro con un apparato normale, un semplice trasmettitore. Se tu hai fatto confronti per dire un 7003 confronto a questo in HF. Ma infatti è quello che sto dicendo, ti prende un S, che sono, da lei con il 7003, c'ha il suo schermo, c'ha il suo, può anche trasmettere, costa quanto è quello, e comunque c'è sempre una cosa che puoi vendere. Se tu vai a vendere un radio, qualunque cosa ti capiti, ci rimetti soldi, capito? Perché lo usi solo in ricezione. E poi ti devi comprare a parte anche il soft, che sono tanti soldini, perché il soft, la cosiddetta, come si chiama, i programmi aggiuntivi praticamente che servono per la decifrazione diretta del del CV, dell'RTT, eccetera. Se poi vuoi trasportare devi fare anche un audio virtuale sul computer, e di lì bisogna capirci qualcosa di cosa stiamo parlando, capito? Di nuovo da trasferire la ricezione del radio alla stessa scheda audio tramite una scheda virtuale, insomma è roba un po', capito? E chiunque giustamente dice, ma chi me lo va a dire? Vado, mi prendo, se vuoi spendere quei soldi, un apparato HF direttamente, decente, col suo bel monitor di spettro, faccio tutto, faccio, controllo anche la trasmissione, eccetera, eccetera. Capito? E tra l'altro è anche vendibile alla fine. No, la mia domanda, sicuramente hai detto giusto, no, la mia domanda era, questo tipo Excalibur paragonabile come sensibilità e selettività al 7003 o è superiore a livello di ricezione? C'ha due fattori per cui lo mettono diciamo superiore. Innanzitutto il suo monitoraggio in tempo reale è da 0 a 50, non so se mi spiego, praticamente è la stessa cosa che fa un Rode Schwarz. Tu l'accendi e ti metti, che ne so, da Sassari, cioè, vedi questo segnalone in 27 che di Roberto, ci clicchi in tempo un secondo, sai dov'è. Tu te ne vuoi andare dalla 27, che ne so, te ne vai in 10 mega, premi la portante, quello vede la tua portante istantaneamente, clicchi e tu sei già lì ascoltandolo in meno di un secondo. Quelle sono le caratteristiche. Lo fa anche il 7003, però devi puntare il litino sullo schermo, devi fare tutte queste cose, puoi centrarlo, perché non è precisa, ovviamente, anche perché lo schermo non è così grande come quello di un computer. Poi il secondo vantaggio è che c'è una sensibilità obiettivamente enorme, capito? È molto molto sensibile e soprattutto molto molto selettivo anche. Quindi diciamo un DSP più evoluto di un apparato HF dedicato come trasmettitore e ricevitore. Eh beh, un tutt'uno, è nato per fare quel lavoro, per fare quello che si chiama sorveglianza radio su tutte le frequenze, capito? Mentre un 7003, un 7000, qual era l'altro, quello più grande, il 7008, cos'era, sono apparati che uniscono una cosa con l'altra, però se domani te stufi, prendi, lo vendi, ma chi è che te lo compra un radio, un qualsiasi usato, se non è proprio un appassionato? E poi il primo pensiero è, ma l'avrà imballato il ricevitore, ma l'avrà imballata, sarà diventato sordo. Sono tutte cose che cambiano, capito? Se trovi, io di guidati usati non ne ho mai visto, e se probabilmente qualcuno c'era era imballato, perché chi ce l'ha se lo tiene, ecco, tutto lì. Okay, vai Claudio. Sì, sì, qua c'è il Roberto, sì, prendo io, sì, stavo guardando la mail famosa che abbiamo mandato, ancora non mi ha dato risposta, l'ha vista ancora, ma quella che tu avendo un attimo lasciato quella tua, ma ti è arrivata qualcosa, Roberto, per caso, riprendi? No, sono andato stasera verso le 5, quell'ora lì non è arrivato niente, ma l'ha letta, tu hai messo il coso di lettura. Sì, adesso che non so, non so che non ce l'ha quella cosa, perché io sono continuo la mia, capito, non so, quella sua, mi sa che la colpisca, mi sa che la tua mi pare, non so che lo abbia, se la pizza, devo fare una ricerca, vedere dove ce l'ha, riprendi. Sì, sì, io sono su Tiscali. Ok, no, ti parlo, se lui hai notato, gli hai mandato la conferma di lettura, se per caso l'ha vista. Mi sa di no, però mi risponderà sempre, molto strano, è molto strano, non l'avrà vista, non l'avrà letta, perché l'ho mandata, risulta come inviata, però ancora non mi ha dato conferma, capito? Perché mi aveva chiesto anche se ce n'erano altri, che quello che aveva ferito l'altra volta, mi sa che si è fatto vedere quello che ci siamo mandati, però qua non mi ha dato risposta, non lo so, non l'ha vista, forse non ha avuto tempo di entrarci, riprendi. Ok, aspetta un attimino di bianco, lasciamo, vediamo se vuole entrare qualcuno avanti su 10. Stavo dicendo già fra poco fa a Claudio, c'erano gli americani molto forti, arrivavano sull'11 e sul 6, oltre 9, solo probabilmente avevano potenze esorbitanti perché non mi sentivano, ho fatto chiamata, e poi erano uno sull'altro, non si capiva niente, una propagazione strana. Sì, sì, ogni tanto c'è la propagazione che arriva e viene. È un po' dappertutto, quindi dalla bella bassa fino alle alte c'è questa strana propagazione. Ma non so se è l'anno questo o l'anno prossimo o quello passato delle macchie solari, del picco delle macchie solari, perché ogni 11 anni c'è il discorso, non ricordo se è quest'anno o l'anno scorso o l'anno prossimo. Sì, infatti. Riprendi Claudia. Sì, qua sono io, riprendo io, sì, grazie per Mike, okay, sì, mi sa che era quest'anno, perché quest'anno sono riuscito a fare un sacco di collegamenti, io ho fatto, sono riuscito a collegare sul Marocco in banda laterale, per cavolo, ho fatto un sacco di roba quest'anno, ho parlato con i ragazzi, però ho sentito molta gente in propagazione, anche dalla Russia, pensa, ho sentito un bel po' di roba, io penso che era quest'anno proprio. Devo guardare poi con calma, me lo guardo su internet. Ok, lasciamo un attimino di nuovo di bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno. Attenzione 10, perché sento ogni tanto dei colpi riportanti, c'è gente che parla, non tanto, probabilmente propagazione. Di nuovo a te Gianfranco il mic. Niente, è così Roberto, è così. Ho detto, ti ripeto, sistemati quel cavetto, tanto dovresti avere anche il coso, come si chiama, il connettore. Sì, sì, io ho detto, addirittura ce ne ho già uno già pronto, nel senso attaccato già alla radio e ti ripeto l'ho utilizzato per altre cose, per l'audio frequenza, no, radio frequenza, per i segnali audio, per interfacciare l'audio e vedere un po' i controlli da quelli che faccio io. Però ne ho uno già pronto da saldare, devo saldare soltanto i piedini con un cavo multipolare e metterlo nelle posizioni che mi interessano. Adesso guardo nel manuale d'uso dove ci sono le posizioni che dovrò utilizzare e poi eventualmente ci sentiamo qua o in frequenza o qualcosa. Io sono riuscito a beccare, anzi sono riuscito, ho chiesto alla persona, dice che tu l'hai autorizzato, di darmi il tuo numero, poi uno di questi momenti magari ti chiamo se non ti disturbo, magari telefonicamente è anche più comodo oltre che più tranquillo. Vabbè, poi magari ti spiegherò di persona, Robert. Difficilmente oramai rispondo a numeri sconosciuti, perché è anche un telefono particolare, ecco, che mi serve per altre cose, e quindi meno in giro quel telefono, quel numero è meglio. non l'ho mai fatto, ho soltanto memorizzato una persona, amico comune, infatti ho detto il momento in cui dovrò chiamare, chiederò l'autorizzazione e basta. Poi se ci sono difficoltà troviamo altre soluzioni, dai, magari, oppure ti faccio chiamare dalla persona a te più vicina, eventualmente quando c'è questa persona magari parliamo in due, eventualmente se autorizzi ti chiamo io, memorizzi il numero se non ti piace un po' di sbaglio. Sì, infatti figurati, anche con quella persona è raro che ci telefoniamo, a meno che non sia per dire passa di là e utilizziamo la radio in digitale, ecco, come qualche volta sicuramente ci hai sentito. Sì, no, non c'è problema, no, stavo soltanto facendo ricorso altri discorsi. Ok, Claudio, di nuovo a te. Sera, normalmente una volta al giorno la controllo per questione di lavoro, perché mi arriva un sacco di roba che è inerente al lavoro. Poi abbiamo dato quella mail lì e vediamo un pochettino, sto aspettando anche altre mail più importanti sicuramente di quello. Ieri mi ha chiamato una persona, mi ha detto guarda che ti dovrebbe arrivare a giugno, la sto aspettando. Di spettro pieno, guarda, ci sono i 40 metri che praticamente non si possono usare, è zeppo di gente, ma proprio saturo, trovare una frequenza libera è una cosa impossibile. E poi adesso come inizia l'inverno, mica iniziano la gente a rimanere in casa, sarà ancora peggio. Sì, ma 40 sono sempre stati così molto, molto affollati. Vediamo, adesso mi sposto sui 5 per vedere se, ma qua invece sono i segnali di quelli difficili, quasi tutto criptato. Sì, questo è il loro pezzo, prendo io, sì, ma per la propagazione c'era stasera, è sentito il commentario di FM, dai, un po' da roba, sto facendo io ascolto sui 40 prima di passare sui 11 metri, e c'era una bella, anche lì, molto affollata della frequenza, capito, visto, sì, e penso che quest'anno sia un anno delle macchie solari, che ho solicitato il 27, perché c'era tutto quanto in estate, ora sono riuscito a fare tanti simili collegamenti quest'anno, molto più rispetto a quanti li ho fatto l'anno scorso, quindi. C'è un'altra di nuovo, avanti che vuole entrare, ma c'è sempre questa portantina 9:10, arriva per buco. Sto dicendo Gianfra, ho un'informazione da radioamatore, i 4 metri, te li ricordi tu quando erano attivi? 4 metri, poi dunque, quindi i 70 dovrebbero essere i 70 megahertz più o meno, stavo leggendo, infatti sono rimasto a bocca aperta, dice li hanno messi, mi te lo leggo in diretta, dal 23 giugno al 19 dicembre 2014 li hanno utilizzati con potenze fino a 30 km di cosa, nella faccia 30 km dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Austria e dalla Croazia, con potenze abbastanza limitate, non ho capito, fino a 50 watt di potenza. Tieni presente che quelle sono sempre state frequenze militari e i militari non ci pensavano neanche, non gli frega niente, soprattutto con questi chiari di luna, di lasciare qualcosa agli altri, ecco. Poi era anche un gruppo di canali, ma ripeto, per loro che hanno tutti gli apparati che bazzicano anche su quella frequenza, sono piuttosto gelosi, diciamola così, della loro frequenza, anche se ne hanno poi centinaia e centinaia, anzi migliaia. Adesso questi qua sono pure preso la briga di cambiarmi le cifre dell'RTT, perché deve essere, c'hanno qualche nuovo standard, ed è un casino quindi per quello che ti dico, quando inizi a scontrarti che ti cambiano anche le cifre come larghezza e tu ce le preimpostate eccetera, è un bagno di sangue anche lì. No, ma quello che voglio capire, siccome l'ho solo letto così, che l'hanno autorizzato per 6 mesi, questa banda di frequenza, per quale motivo è stata autorizzata? C'è un motivo specifico, solo per 6 mesi nel 2014, mi pare da febbraio a dicembre, non so, più o meno 6 mesi. Sperimentazione, no? Sempre per lo stesso motivo, sperimentazione. Ah, solo per quello, no? Pensavo ci fosse qualche attività particolare, non lo so, perché ce ne sono talmente tante di frequenze, che proprio questa qui, e non la puoi utilizzare a 30 km dal confine di Francia, Croazia, Svizzera, eccetera, fate tanti cacchio di discorsi. No, perché di lì, in quasi tutta Europa, i sistemi di emergenza, tipo vigile del fuoco, ambulanze e così via, tra cui anche la Germania, ricadono in quella banda, tutto lì è il motivo. Infatti, siccome sono frequenze dedicate queste, non capivo la logica di fare operare in quella frequenza lì, mettiti in un'altra banda magari dove non c'è nessuno, ti posso dire, ma cacchio, proprio sui 70, come sui 12 MHz non si può operare, mi sembra, no? Ha detto in? I 12 MHz, è vietato operare, cos'è la banda dei 35 metri, boh. No, in 12, allora, poi bisogna distinguere perché sono tutte suddivise, ci sono anche molte broadcasting. Poi c'è, se non ricordo male, anche la banda aerea lì. Ma 30 metri sono i 10 MHz più o meno, dai, e i 20 metri sono i 14, è una via di mezzo tra i 20 e i 30, i 12 MHz c'è scritto no, non si può operare. Sì, c'è la banda aerea, c'è la banda aerea soprattutto digitale, l'HFDL per l'invio dei segnali digitali da parte degli aerei. È una specie di HR, per HF, che l'HR tra l'altro dovrebbe già essere sparito, che lo sostituisce il come si chiama? Il VDL2, che è più completo, ecco, da anche le posizioni. Avanti Claudia. Sì, Castelle Giancarlo, sì, stavo ascoltando, ma adesso io però mi approfitto per salutarvi, non mi viene a dire lanciato, che devo andare a fare una cosetta, là. Niente, là, vi ringrazio per questo, delle due chiacchiere ci siamo scambiati e ci sentiamo alle prossimine. Saluto a te, Don Franco, Roberto e tutti gli eventuali amici in ascolto, Roberto, fammi sapere domani a che ora passi, così ci mettiamo d'accordo per quella cosa, dai, adesso passo un cuore più secca, dai, vi super saluto, da, devo andare a fare una cosetta, dai, mi ha fatto molto piacere, da, riprendi Roberto, cuore qui per me. Ciao a tutti e buona serata a tutti. Ciao, buon tutto Claudio. Se riesco domani, naturalmente dopo che esco dal lavoro, dopo le 6:30, mi avvicino 10 minuti e vediamo un pochettino. Se riesco a venire, non ti garantisco, devo trovare il modo di venire perché sono sempre impegnatissimo io. Ho sempre qualcosa nel tempo libero, poi ho sempre cosiddetto libero, faccio altre cose. Adesso oggi avevo programmato delle cose, non ne avevo voglia, ho lasciato perdere. Comunque ti saluto, grazie della chiacchierata e rilancio a Gianfranco. Vai Gianfranco. Sì, ciao Claudio, buona serata e alle prossime. Adesso mi è venuta in mente una cosa, credo anche quando sento a Roberto e la faccio ascoltare. Io pensavo che fossero ingenuamente sempre sparite queste cose, invece ci sono ancora, senti, e dimmi cosa ti ricorda. Alpha 7 Kilo 5 Lima Yankee Alpha 34. Cosa ti ricorda? Non so cosa mi ricorda, la Station. Non ho capito bene la lingua, stava facendo dei numeri o delle lettere in alfabeto fonetico? Cosa sta dicendo? Sono delle lettere. Adesso sta lettere e anche numeri ci dovrebbero essere. E questo era sui 15.016. Adesso non mi ricordo se ho anche registrato il finale. Ovviamente roba militare al 100%. Al finale ha smesso la voce, che era con un segnale che non ti dico, sempre oltre il 9, e poi è comparso il digitale, proprio una cosa da paura, basso basso, è stato proprio tipica comunicazione cambio basso, no? E poi è cessato tutto. E questo quando è successo? È successo alle 18:37:31 del 24 di questo mese. Ma quindi è una cosa recente, no, pensavo fosse una cosa vecchia registrata tempo fa, no, quelle sono un paio di volte mi è capitato di sentire la Lamba Station, le più, dico non timorose, le più particolari, quelle che c'è la musichettina che sembra il film di terrore, le ti è mai capitato quelle? Sì, sì, ma guarda, qua se ci ragionano un po', possono essere un paio di nazioni che fanno questa cosa, tipo Israele o tipo, perché ti dico ciò, perché quando danno una codificazione del genere di norma è diretta a persone, a parte la parte digitale che quella lì deve essere tra due stazioni di lì locali, ma per quello che riguarda la parte numerica così potente e così chiara, se notato le pause sono proprio lunghe in modo che si capisca, quello lì è dedicato a persone che non hanno apparati ricetrasmittenti, ma hanno solo radio comuni, il più comuni possibili, proprio magari anche vecchie, magari tutte rotte, eccetera. E questo perché in certi paesi già solo ascoltare quella frequenza significa che te ne stagniamo la testa. E quindi di lì mandano eventuali informazioni alla spia, diciamo così, con richieste, magari guardami se c'è tipo, guardami se c'è caio, guardami se quell'installazione è in fase di costruzione, sono tutte quelle operazioni ovviamente molto sensibili, per cui già il possesso di una radio al di fuori delle standard si manda sicuramente, molti le fanno l'esecuzione sul posto, se prima non le fanno qualche altro trattamento. Sì, ma mi ha meravigliato, tu hai detto a 15 MHz le ascolta. Sì, sì, a 15 MHz, non c'hanno, sono trasmissioni sicuramente anche come frequenza che cambiano di continuo, perché se l'ho ascoltato io indubbiamente l'avrò ascoltato anche tra virgolette il nemico, e quindi la prossima volta la tiene sott'occhio. Capito? Sicuramente l'utente destinatario ci avrà memorizzato da qualche parte un calendario in cui dice il giorno 8 utilizziamo, devo ascoltare quella frequenza, poi se vogliamo, come faceva Radio Londra con i partigiani, no? Il fiore sta per essere spezzato, il cosa. Solo che di qua dicono direttamente i numeri, perché non deve neanche minimamente ricondurre all'oggetto, ecco. Cazzira di Nisegru Gabu. Mia Natalino, questa è una spiramide del KGB. E tu pure lo sai. Al KGB. O chi dice voglio al KGB, o cosa sei dei Mossad, Natalino? Dunque c'è sempre questa portante, pum pum, chi è avanti che vuole entrare? Ma è per quello che io dico che a volte conviene spostarsi da 10 quando si fanno, questo è un pochettino poter risposta, capito? Perché sennò troppe interruzioni. Comunque c'è anche una logica, io lo stavo leggendo di questo fatto, sono abbastanza, a me piacciono questo genere di cose, e in quel caso lì non so esattamente come sia la logica, però molte logiche di questi sistemi di, con i numeri, e a parte la frequenza che è un po' strana, perché normalmente sono intorno ai 3.000-4.000 frequenze onde lunghe, diciamo, eccetera eccetera, e loro la logica era questo qua, stava spiegando uno, per dire, io ti dico dei numeri 13, 51, 24 eccetera eccetera, tu quel giorno a tale ora, per dire, perché erano ogni mezz'ora, ogni ora, hanno degli orari prestabiliti di mandare queste cose qua, questi segnali, tu copri il giornale, la Nuova Sardegna ti dice 51, per dire pagina 51, poi 3 e guardi la riga 3, poi 2, la seconda parola, e ci sono delle parole che hanno un significato, per dire mare, e per dire nella pagina 51 lui dice mare, poi ore 15, per dire c'è dall'altra pagina, ti danno dei nomi in codice, e c'è delle cose in codice che tu devi sapere che devi leggere quel giornale, in tale giorno, eccetera eccetera, in modo se ti dovessero trovare dicono io ho una semplice radiolina per l'ascolto delle onde corte o delle onde lunghe, ho un giornale della Nuova Sardegna, e nessuno teoricamente ti potrebbe fare niente. Tu devi avere naturalmente l'idea di quello che devi ricercare, perché se non sei informato di prima, prima di arrivare a questo punto devi essere informato. Questa è la logica che ho visto io, però adesso quelle che mi stavi facendo ascoltare tu, c'erano dei codici alfabeto fonetico e poi c'erano dei numeri. Sì, ma infatti c'è il vantaggio lì, praticamente in questi casi, che se anche ti pizzicano, diciamo, e ti perquisiscono la casa, magari trovi una libreria o dei romanzi, romanzi però senza sapere la pagina, senza sapere se è veramente quello il libro, insomma tanti fattori, e poi tra l'altro se ti dico un numero, quel numero potrebbe anche essere diviso per 10, magari il secondo lo dividi per 5, quindi è una criptatura della criptatura della criptatura, quindi estremamente sicuro. Certo, se quelli hanno il dubbio, secondo il paese che dicono ah sì non c'è niente, però le mostre le tagliano la testa lo stesso, per essere tranquilli. Vero Natale? Sì. Saron cami subito in terra. Infatti, sono stati, sì, già ce lo ricordiamo alla fine che hanno fatto fare a quel pilota, poveraccio. E in Iraq invece a quell'italiano, quindi è un mondo spietato quello. Riprendi roba. Dai, un giorno se ci dobbiamo verticale, ci troviamo verticale, ti racconto una storiella che qua preferibile non raccontare. E ci sono tante cose che noi non sappiamo niente, noi viviamo, tra l'altro, in un'altra realtà. Ci fanno capire, ascoltare, vedere quello che vogliono loro. Noi, se uno si informa, magari adesso col discorso dell'internet, se sei un pochettino attento riesci magari a immaginare cose diverse da quello che ti raccontano, oppure vedere la realtà in un modo diverso, dai. Perché sennò se tu ti fidi di quello che ti dicono hai perso. Guarda Robè, io ti posso dire una cosa parlando con chi si occupa di queste cose. Proprio con internet si ha l'esaltazione della menzogna, proprio la filosofia è quella che ha introdotto un certo personaggio che qualcuno considerava il demonio sceso sulla terra, che si chiamava Goebbels, che era il braccio destro della propaganda di Hitler, che ha detto una cosa, nonostante fosse il peggio del peggio, giusta, che se uno insiste a dire una bugia e la dice tante volte, stai tranquillo che chi ascolta prima o poi si convince che non sia una bugia, quello che hanno fatto d'altronde i nazisti. E adesso questa pratica si estende e viene applicata regolarmente su internet, quindi bisogna stare molto molto attenti, però non vorrei entrare in questo argomento perché so che abbiamo opinioni molto ma molto ma molto diverse. Io sono sempre per la verifica, il controllo e quelle cose lì, ecco. Sono pignolo, come sempre detto, che molti considerano un difetto comunque. Riprendi Natali. Sì, infatti. Io ho visto e sentito cose. Un bel lavoro. Posso aggiungere una cosa, Gianfra? Assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu, però bisogna avere tutte e due le campane, non vedere solo una campana, perché se tu vuoi far male a una persona inizi a bombardarlo scrivendo e informando, disinformando una persona, dicendo quello ha fatto quello, ha rotto quello, ha sfasciato quello, eccetera eccetera. Bisogna vedere anche l'altra parte della campana, perché bisogna sentire anche quello, l'altra, la sua autodifesa, perché facciamo esempi senza andare lontano, dall'Afghanistan, Saddam Hussein, il Caucaso, eccetera eccetera, ci sono tante cose che a noi ce la fanno vedere in un modo, però bisogna capire anche l'altra parte, e poi tu, se sei intelligente, dici ma forse c'è, non è proprio così quella cosa, e uno poi ragiona col suo cervello, no, seguire solo una direzione. Io sono di quelli che ho la mente aperta, giusto o sbagliato che sia, preferisco sempre ascoltare tutte e due le versioni, e così succede su internet. Naturalmente ci sono un sacco di fesserie, la maggior parte sono fesserie, però qualche cosa, se riesci a filtrarla bene, ti rendi conto che non sono tutte fesserie. Sì, io mi baso sui ragionamenti ragionati, che sono quelli che spesso funzionano, quindi il detto fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, soprattutto quando queste cose vengono fatte da persone in cui metti molti ma moltissimi punti di domanda. Guarda, ti faccio, a me proprio fantasia è capitato che ero in un bar, stavamo parlando con il barista e poi c'era un servizio in credito per quello che riguarda quelle dimostrazioni di Trento, no? Molta gente anche è arrivata da fuori eccetera, e subito, siccome quello è barista e io sono faccio parte dello Stato e quindi sappiamo quanto prendo io e quanto prende lui, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ma scusa, ma tu te lo faresti un viaggio a Trento per dimostrare su una cosa che tra l'altro è anche abbastanza contestabile? E ha detto ma io ho famiglia, io già devo stare qua fino a notte, figurati se c'è soldi per prendermi l'aereo, andare di lì a dimostrare. Non so se una persona che sta ascoltando fa scattare qualche campanello d'allarme. Io non ci sarei andato, tu probabilmente neanche, Natalino neanche, cioè invece questi vanno. La verità purtroppo è un'altra, che sotto ci sono altre cose che qualche giornalista ha tentato di tirare fuori, però quando sono quei giornalisti, ripeto, di inchiesta e quindi dipendenti tra l'altro, e quindi insomma queste cose saltano subito all'occhio, ecco. Adesso, scusa Natalia, adesso ti faccio un altro discorso. Io stamattina, io di mare me ne tengo abbastanza perché da sempre appassionato eccetera eccetera di marineria, e non so quanto è lontano venire dalla Libia e arrivare verso Lampedusa, quante miglia sono, non diciamo 10, 50, 100, quello che diciamo è abbastanza rischiosa, soprattutto in questo periodo. Oggi hanno fatto vedere un gommone di lunghezza, secondo me sarà stato un 12-15 metri, ci eravamo sedute sul gommone, c'erano una sessantina, 65 persone tra adulti e ragazzini. Lo sai che motore c'aveva questo gommone? Un 6 cavalli. Tu ragiona, dice, questo l'abbiamo intercettato in mare, è venuto dalla Libia. Ma come fa a venire con quella gente, con quel peso, un gommone di quelle dimensioni, con un 6 cavalli? Quel gommone lì l'hanno preso, la gente ce l'hanno messa sopra quel gommone, l'hanno mollato di lì, dice, il gommone alla deriva. Per cui anche le informazioni molte volte sono completamente fuori dalla realtà. Sì, da qualche nave li hanno sbarcati su quel gommone, certo, con un motore di cavalli ne viene anch'io. Oh, sì, no, ma guarda che in epoca romana i motori non c'erano, si utilizzavano i remi, eppure la Sardegna ad esempio, Tarros esattamente era collegata con Roma, con una costanza da fare meraviglia, per il semplice motivo che da Cartagine qua arrivava il grano, poi da qua veniva smistato e partiva per Roma, e questo tutto a remi. Le cosiddette galere, di lì c'era il tizio che batteva il tamburo e diceva voga, voga. Ecco, di lì ci avrei mandato un paio di persone, diciamo, che fanno certe cose, altro che carcere. Poco mai e a lui mi è beta e asciugano la figlia che accusendi, state dicendo poco di cose, vabbè. Comunque siete tre cuocomani e basta. Siamo vecchi, vabbè, per Roberto non posso parlare, siamo vecchi. No, tu sei il cuocomani più anziano, poi c'è Natalino e poi c'è Roberto. Io sono, mi sto disintossicando, non sono più cuocomani. Ah, in comunità sei andato io, un giorno sono andato io. No, sono andato a Setta a prendere il coso, il metadone. Roberto, ma tu sei molto giovane. Diciamo abbastanza, cosa giovane, sono un vecchietto. Vabbè, non so quanti anni avete voi, forse un paio di anni più giovane di Claudio. Tu quanti anni c'hai? Io mi avvio, cioè sono già 64. Io ne ho fatto 58 a coso a settembre. Natalino forse ne avrà qualcuno più di me. Natalino quanto ne hai tu? Natalino è scappato, appena abbiamo chiesto l'età come le donne è fuggito. Natalino! Quanto è Gianfranco detto? Ah, non ti ho sentito. Claudio, tu quanti ne hai? 62 se non sbaglio. Io 2 meno di loro. Io 62, loro 64 e tu 58. L'importante è sentirsi giovani dentro, il problema è che poi le gambe non ti tengono. Che l'uccello ti tiene più. Speriamo di no, speriamo che ci tenga, se no guai. No, piuttosto tu, quindi, vabbè, non dico che sei un abusivo, però sei come si dice quando entrano tipo nelle squadre di calcio i pulcini, no? Quelli che sono più giovani e quindi nel club non possono essere iscritti. Tu sei un ospite giovane in attesa di iscrizione, dai. Un esordiente. Sei un esordiente, quindi ripresentati a 60. Il tempo già passa, già te ne accorgi, quando dici cacchio io facevo certe cose prima, se adesso le faccio le domani sono potuto fare ruoli, lasciamo perdere. Ok, no, hai capito il discorso mio, tu anche i vichinghi sono andati prima di Colombo, 1000 anni prima, nell'America, però tu non puoi dire una notizia, sono arrivati dalla Libia 65 persone con un gommone di 15 metri, con un 6 cavalli Yamaha, cioè qualunque marinaio, il più tonto marinaio del mondo ti ride in faccia, perché solo con la forza della corrente vai all'indietro, non vai avanti. Quella l'ho presa con un peschereccio, queste navi, come si chiamano, queste delle associazioni alienicole che abbiamo, li prendono, ce li buttano lì sopra, c'hanno un gommone, sedetevi tutti lì che adesso arrivano, sono tutti con i gibuttini di salvataggio, adesso arriva la capitaneria italiana e vi porta a casa. Non è esattamente così, e ti potrei spiegare il perché, però non lo posso fare per ovvi motivi, capiscimi al volo. Comunque, se non lo sai, questo te lo posso dire, che tutto è visto, tutto è guardato, anche quello. Guarda, c'è una persona che diceva, parlando con un'altra, tu pensi che io non sappia, però io so anche di te quello che tu non sai. Ecco, ti ho detto tutto. Sì, ma io ti dico una cosa, quando tu vedi e ti giri dall'altra parte fai finta di niente, perché le tue cappe ti hanno detto lasciar perdere. Io ho visto dei video che ti mette le mani in testa di cosa, di collaborazioni, non dico la, il nostro ministero, perché il nostro ministero molte volte chiude gli occhi, di cose della, della Libia, delle motovelette che le abbiamo dato noi, che poi alla fine si recuperano anche i motori, li fanno mezzo affondare, poi prendono i motori e se li recuperano per fare altri viaggi, per dire, lasciamo perdere Gianfranco. Il fatto che ci sono interessi che l'uomo comune neanche si immagina, sono interessi strategici, interessi particolari, spesso anche lotte intestine, anche tra